Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Scusate il mio devo cautelare. Non andate a seguire la diretta Facebook di Nicoletta Carbone. Restate ad ascoltare la radio, vi prego. Non andate, a meno che non vi bruci il pisello, che dovete fare la pipì, avete problemi urinari, oppure avete la stipsi, la stepsi, non so bene che. Certo, avere come traino dei problemi urinari, e oggi mi è andata bene, perché magari domani mi tocca la prostata, dopodomani mi tocca la diarrea, dopodomani mi tocca qualcos'altro, non è proprio il massimo. Vi prego, non andate alla diretta Facebook. State ad ascoltare la radio, anche perché non siamo pagati per fare la radio. Fotoromanzi che erano prima le signore, naturalmente. Katiuscia, eccola, è lei. Katiuscia, come si saluta in un fotoromanzo? Grazie molte. E Michela Rock, eccola qui. Ciao, grazie, eccola. Francioli, Luciano Francioli. Buonasera. Quando il Parlamento finalmente deciderà di occuparsi dei fatti nostri, vorremmo che mettesse mano anche alle questioni che questa sera vi raccontiamo. Come funzionano i salvataggi delle grandi aziende di Stato? Si arriva sempre a scoprirli quando ormai sono decotte, i commissariamenti durano tanti di quegli anni, per cui alla fine chi rischia di fallire sono i creditori. Perché? Cominciamo con la storia di due aziende, di due compagnie aeree. Una che lo Stato ha fatto fallire, un'altra che lo Stato ha cercato di salvare. Siete fazzisti o gabanellari? Questa è la domanda. Domanda secca e risposta altrettanto secca. Perché sì, naturalmente, dopo 60 e passa anni di servizio pubblico, voi che siete figli della televisione, abbonati in prima fila, che siete stati concepiti magari su un tavolino di formica sulla cucina americana negli anni 50, guardando i programmi di Mike Buongiorno, oggi dovete fare una scelta. Cosa ha prodotto la RAI? In 60 anni di servizio pubblico, la più importante azienda culturale che esiste in Italia, forse anche in tutta Europa, ha proposto una diade di riferimento, fatta da chi? Da Fabio Fazio e Milena Gabanelli. Non si parla d'altro, i giornali sono pieni di questa storia, pensate, 100.000 firme, hanno firmato in 100.000 su change.org perché la Gabanelli resta la RAI. Non è che la RAI l'ha cacciata, gli dà pure un pacco di soldi, semplicemente dice ti mettiamo a dirigere il sito della RAI. Boh, io l'ho fatto per anni, ero tutto contento, non è che era proprio un brutto lavoro. No, lei è forte, dura, immarcescibile, non vado a fare una cosa diretta ad un altro direttore, o tutto niente. Si autosospende, non prenderà forse lo stipendio, ma rimane in RAI. E questo è un esempio, tutti dicono vogliamo Milena, come facciamo a non fare senza Milena? Milena è la dura. Milena è la donna con le palle, che è un'aporia, una contraddizione in sé, ma è la donna con le palle che tutti gli uomini vorrebbero, perché rappresenta la libertà, rappresenta la forza, rappresenta l'andare contro tutte le convenzioni, rappresenta colei che pone il petto di fronte al fuoco nemico. Sì, però sono 30 anni che sta in Rai, ancora sta sempre lì, quindi probabilmente però è l'eroina che tutti vogliono. E questi sono i gabanellari. Se siete gabanellari o se vi identificate in questa figura di combattente contro tutto e contro tutti, quello che la dice, siete gabanellari. E voi state da questa parte. Oggi voglio proprio i numeri. Se invece siete per l'uomo che tutte le donne vorrebbero come amichetto, come confidente, quello a cui tutto sta bene, che sorride per tutti, sorride con tutti, sta bene con tutti, anche lui grande eroe del galleggiamento, sta lì, non so, dagli anni 80 che sta, da quando faceva le voci e le imitazioni, sta sempre lì. Mentre una si distingue per rifiutare il soldo che dovrebbe corromperla, l'altro in realtà dice, oggi vedo una grande intervista, mi sembra, sul Corriere della Sera, guadagno un sacco di soldi, guadagno tanto, ma l'area risparmia, tra 4 anni smetto e faccio il produttore. Già dice, fra 4 anni smetto, ma Fazio si parla addirittura 18 milioni a stagione costa. Voi direte 18 milioni a stagione per fare cosa? Per star seduto su una sedia, sorridere e farsi prendere per il culo al litizzetto e dire sempre sì, che bello, stupendo, ma è bellissimo, bellissimo. Beh, sono due punti di riferimento. Questo ha prodotto la RAI. La RAI che doveva educare gli italiani. Bernabei pensava diamo uno strumento perché gli italiani abbiano un'alternativa alla parrocchia, al prete, al sindaco, alla mamma, al papà. Ci sarà la RAI che insegnerà agli italiani a vedere il mondo, a dare cultura, a formare gli italiani. Pensa, si rivolterà nella tomba, poverino. I due modelli sono due modelli antitetici, speculari. Uno è il contrario dell'altro. Un uomo che è una sorridente come una scolaretta, a cui va tutto bene, ma va bene anche lui perché eroe comunque dell'essere iperpagato per sorridere sempre. E l'altra è l'eroina di porsi sempre contro tutto, contro tutti, di essere cattiva, dura, sgradevole, di mettere tutto in difficoltà, ma tutti e due stanno lì dentro, quindi noi dovremmo imparare qualcosa. Siete fazzisti o gabanellari? Lei è un'attrice pazzesca, Orietta, a parte che ha recitato in un sacco di film. Tu hai recitato con Scola? Sì, I Nuovi Mostri, con Tognazzi, poi quando c'era lui che ero lei, sì. Che, con Fantozzi. Sì, e poi cosa hai fatto? E poi ho fatto Suor Teresa. Ecco questo qui, sì, ecco qua, guarda Orietta, Suor Teresa. Segniamo canto. Zoom. Mamma mia, quanto sono contento di vederti. Pure io, Fabio. Vi do qualche elemento. Ragazzi, anche voi tendete sempre ad adattarvi all'ambiente. Non volete mai entrare in contrasto con nessuno, non dovete mai avere situazioni che vi possono mettere in difficoltà. Anche voi sorridete sempre, anche voi siete sempre gentili, anche voi non siete aggressivi. Voi siete fazzisti e state da quella parte. Voi al contrario siete questo? I concorsi sono obbligatori, lo dice la Costituzione, però li puoi organizzare in modo da reclutare i migliori, i mediocri oppure quelli che vuoi tu. E il risultato è un po' perverso e stiamo parlando dei pilastri. Cominciamo a districarci in una storia ambientata nella più insospettabile provincia italiana, fra personaggi che non verrebbe mai in mente di prendere sul serio. E poi si arriva al traffico internazionale di armi e sullo sfondo il sospetto che finiscano nelle mani del terrorismo. Voi siete di quelli che dicono adesso arrivo io e gli rompo il culo? Siete gabanellari. 800240024, mi servono numeri alla mano, telefonate, anche semplicemente per dire sono fazzista, sono gabanellaro, come sta facendo Laura. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei cosa è? Nicoletti dei Gabanelli. Gabanellara. Gabanelli, mamma, quanto Gabanelli mi manca quanto mi manca Repol. Ma no, perché io credo che comunque gli italiani devono fare uno sforzo di crescita, chiaramente la Gabanelli porta comunque alla crescita. Alla crescita, all'evoluzione, a capire tante cose di noi e del mondo e migliorarci. Quindi è uno stimolo ad andare avanti e non guardare in faccia a nessuno. Grandioso. Non guardare in faccia a nessuno. Grandioso. Lei ha sempre pagato. No, guardare in faccia a nessuno, magari è un'estremizzazione. Ma questo è. No, Gabanelli, questo. Gabanelli di fronte a una notizia non è che si pone il problema e no. Coinvolgo questo o quella. E questo no, è certo, la sua forza, certo. È quella. Incontro. Quindi essere degli eroi. Lei è gabanellara, sì, in quanto sì. L'italiano deve ritrovare la sua matrice di eroi. Un guerriero. Esatto. Coi santi. Grazie, siamo ancora messi bene, con i navigatori pure, navighiamo da Dio, siamo tutti santi, i santi sono sempre nelle piazze, mancano gli eroi. Antonio. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei cos'è? Sì, io allora, se dovessi scegliere, se fosse obbligato a scegliere direi fazzista, mi sembra un po' meno ipocrita perché dice che comunque lui i soldi se li piglia. Anche se. Ecco, lei allora ribilancia. Il fazzismo è una via onesta comunque a aumentare la produttività, a ridare vigore al paese. Esatto, poi invece viceversa la Gabanelli mi sembra un bel esempio del chiagni e fotti. Insomma, sostanzialmente questa qua. Non volevo dirlo, in effetti. Da una vita sta in Rai, come ha detto lei, ha utilizzato la Rai per fare una bella carriera giornalistica. Ha utilizzato i servizi legali della RAI per difendersi da tutte le cause che ha avuto, più o meno temerari o meno. E mi sembra, mi ricordo in parte anche l'atteggiamento di Bianca Berlinguer, sembrava epurata, poi giustamente io me la trovo in perversare fascia presserale, post-serale, insomma un'epurazione che a me è sembrata più una promozione. Gli epurati veri lei non li vede più? Quelli che dicono sono pure Santoro sul fatto di essere epurato, è una vita che sta sempre a galla. Queste sono tecniche di galleggiamento, ma non parliamo in negativo, non facciamo soltanto la pubblicità negativa a quello che lei non trova a rappresentarla. Il fazzismo, vediamo di analizzare un pochino più il fazzismo in cui lei trova una scuola di vita, una via aperta. Qual è il segreto del fazzista secondo lei? Ma guardi, a me... Ripeto, non è che sia un fazzista integrale o oltranzista, ortodosso. Diciamo che tutto sommato ammette che fa un lavoro ben retribuito, giustamente, ben remunerato, ma restituisce un beneficio all'azienda per la quale lavora, tutto qua. E per questo voglio dire, siamo in un sistema di libero mercato apparentemente. Quindi giustamente il fazzista dice è limpido. È onesto. Dice io faccio il leccaculo per il mio mestiere, questo mi è stato chiesto. E va bene per tutti e porto soldi all'azienda. Quindi gli italiani in realtà che è questo. Un po' come Vespa, pure lui dice che il suo azionista di riferimento è il partito di maggioranza. Fermo un attimo. In un momento in cui tutti gli editori chiamano i loro questo è doloroso, chiamano i loro diciamo rappresentanti editoriali, persone che lavorano il loro prodotto, editorialisti, giornalisti, conduttori, dicono caro, se vuoi questo è il paletto, un bel pezzo te lo prendi te perché abbiamo dei problemi e se vuoi così. Vespa si è preso il paletto, gli hanno decurtato del 30% lo stipendio. Fazio è stato aumentato in maniera vertiginosa in un momento in cui tutti tagliano. Quindi Vespa ormai fa parte di quei modelli che non sono più modelli, sono due, è una diade, fazzisti o gabanelliani. Milli. Io, buongiorno, sono Milli da Milano. Cos'è lei? Sono gabanelliana tutta la vita. Ecco, allora lei sta facendo in questo momento pendere la bilancia verso la gabanella. Abbiamo due gabanelliani e un fazzista. Vediamo perché gabanelliana. Io sono gabanelliana perché sono una persona che apprezza le donne impegnate, serie, come la gabanella. Quelle donne con le palle, giustamente. Con le palle, ma apprezzo pochissimo. Ma perché le donne, le donne perché per essere apprezzate non avere le palle? Cioè io mi piacciono gli uomini. Non dovrebbe essere così, ma in realtà... Perché è così? Nel nostro paese l'unico modo per farsi rispettare è avere le palle. Esatto. E allora scusi, Fazio cos'è? Un uomo con la fica? Mi faccia capire. Ma non direi una cosa così. È un uomo per tutte le stagioni, va bene per tutti, fa un sacco di marchette durante la sua trasmissione. Non è che sono cose nascoste, è palesemente uno spazio di promozione. Ma lui lo dice. Io non apprezzo il fatto che una persona che ha quell'impegno lì prenda dalla RAI, che quindi è un servizio pubblico, tutti i soldi che prende. Questo non sono d'accordo. Se c'è un mercato, il mercato dice che lui deve prendere quei soldi, sì, perché però deve rinunciare? Guardi che non c'è nessuno che te l'ha offerto un'altra alternativa così. È talmente bravo che fa in modo che comunque... È talmente bravo che rimaneva in RAI e restava a casa sua. Però rimane in RAI, come mai? Ecco, vede che però... Il fazzismo vince sul gabanellismo in questo punto. Può darsi, io però continuo a essere gabanelliana perché è una persona seria, rigorosa, che non parla a caso, ma si documenta. Quindi mi dispiace anzi che non ci sia più. Ci siano i suoi collaboratori. Ma non è che non c'è più, è lì, non è che se n'è andata. Sì, è lì, ma non la vedo, non la sento, non può fare le trasmissioni. E anche la RAI, anche in questo caso, ha perso l'occasione di dare un'opportunità a una persona valida. Però comunque, tanto la storia è così. Però gabanelliana, va bene. Paola. Buongiorno. Cos'è lei? Lei? Gabanelliana. Ma sta vincendo, la Gabanelli sta spopolando. Gabanelliana perché? Vediamo di capire. Come potrebbe perdere la Gabanelli? Noi grazie a lei ci riappropriamo. Ma scusi, siamo un paese in cui la leccaculaggine la insegna una scuola insieme all'ABC. Improvvisamente tutti i gabanelliani, tutti eroi. Dove sono finiti gli eroi? Va bene, mi dica allora. No, io non la vedo come un'eroina. Cioè, non sono neanche d'accordo con la signora che parlava prima, perché nell'accezione di dire se un uomo, una donna con le palle è proprio un controsenso. È un controsenso, no? Lo dite voi. Però io almeno, grazie a lei, mi riapproprio del mio servizio pubblico che è la RAI. Faccio un esempio in cui si è sentita, finalmente... È tutto mio il servizio pubblico guardando la Gabanelli, Non è che intendo che sia tutto mio, però come giustamente diceva lei prima, allora perché la Gabanelli non guarda in faccia nessuno. Giustamente. Allora, non è propriamente così, nel senso se il servizio è pubblico è di tutti, la notizia deve essere di tutti e quindi deve essere data sia se riguarda la RAI, se riguarda me. Non si fa intimidire la Gabanelli. Fa giornalismo. Se le tira fuori gli stracci. Tutti quelli che sono stati epurati, lei continua su questo, ed anche il fatto che si è autosospesa e ha preso l'aspettativa dalla RAI. Un grandissimo gesto, perché l'autosospensione in RAI vuol dire che è effettivamente senza stipendio, nonostante lei per 2 anni lo potrebbe prendere. Lei dice, io rimango dentro, in attesa che mi date qualcosa degno di quello che mi avete promesso. Perfetto, Gabanelliano. Walter. Sì, io sono gabanelliano anch'io. Troppo facile, sta vincendo la grande. È troppo facile, basta guardarlo, cioè nel senso che anche fisicamente che cosa rappresenta? Che cosa della televisione, cioè non per essere polemico, ma in effetti guardiamo noi quando guardiamo Fazio? Ma è un bel ragazzo, io se fossi donna non lo guarderei neanche a distretto. Ma quello è chiaro, perché lui fa di tutto per non sembrare uomo, fa parte del gioco. Perfetto, io non dico che sia omosessuale perché non ci credo. Anzi, ultimamente... No, dicono che abbia una fantastica sua collega bellissima. Perfetto, che ha, sono d'accordo, benissimo. Lei può avere tutte le donne che vuoi, però voglio dire, stiamo guardando che cosa? La RAI, giusto? La RAI deve dare qualcosa agli italiani. E ha dato due modelli, Fazio e Gabanelli. Due modelli totalmente differenti, per questo in questo momento noi ci troviamo a votare per l'uno per io voto Gabanelli, perché dà un senso alla RAI, Fazio non dà né lui negli ospiti, per non parlare poi della streghetta che voglio dire con tutto il rispetto. Ma quella è un'altra cosa. Basta leggere uno dei libri, cioè non si riesce a raggiungere la seconda parte. Adesso Letizietto non c'entra, ho capito, Walter, fermo là. Io faccio la sintesi prima di dare la linea. A questo punto noi abbiamo quattro gabanelliani e un fazzista. Cominciamo a capire che in realtà la RAI sta facendo scelte sbagliate, sta strapagando una persona che in realtà non ha in sé il privilegio di vedere la gran parte degli italiani che si identificano in lui. In realtà sta semisfanculando una persona che in questo momento è nel cuore degli italiani. Ma sarà vero? Gli italiani, sarà vero che sono gabanelliani e in realtà disprezzano il fazzismo, o in realtà sono tutti fazzisti, si nascondono come tutte le categorie che nascondono e non lo dicono? Siete fazzisti ma non lo dite. Questa è la mia provocazione. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Melog, il piacere del dubbio. Sei il mio mito, ti pare che ti frego? Ma lo dici a tutti, sei il mio mito. Ma non è vero, Non lo dico dal 97. Se ci fossi tu la televisione sarebbe diversa, a tutti. Non te l'ho mai detto. Sei volte a settimana. Ma non te l'ho mai detto. Siete fazzisti o gabanellari? Ho capito che il servizio pubblico pone queste due categorie manichee, antitetiche, quelle e nient'altro più, Fabio Fazio e Milena Gabanelli. Gli italiani devono per forza identificarsi in uno dei due. Ho lanciato un sondaggio all'inizio di questa trasmissione, al momento pende decisamente verso la Gabanelli. Tutti sentono gabanellare, ma come? Dove siamo un popolo di eroi? Un popolo di persone che amano la verità, di persone che non guardano in faccia nessuno, di persone capaci di rinunciare al proprio stipendio in nome di un ideale. E perché denigrate Fabio Fazio? Fabio Fazio è l'esempio più lampante di quello che sia l'italiano medio. Perché fate finta che non vi piaccia Fazio quando siete tutti intimamente fazzisti? Siate sinceri. Pino, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Fazzista o gabanellaro? Sì, no, io sono fazzista. Oh, beh, finalmente uno che ha il coraggio di ammetterlo. Ancora non c'è una legge che proibisce di essere fazzisti, quindi si può essere fazzisti. Chiedo scusa Nicoletti, non è ben chiaro il problema, cioè Fazio e Gabanelli sono due aspetti della radiotelevisione italiana, ma che fanno programmi completamente diversi. Per questo è un'antitesi completa. È un'antitesi completa. Se a Fazio hanno offerto questa cosa qui, ma credo che sia stupido da parte di Fazio non accettare. Ma giustamente. Se è riuscito ad avere tanto dalla RAI, tanto di cappello. Allora scusi Pino, chi si dice antifazzista e quindi gabanellaro in realtà ha invidia di Fazio, vorrebbe essere come lui. No, assolutamente, io dico non per invidia, perché gli riconosco questa capacità di farsi dare dei soldi per il programma che fa. Dico, ma il resto delle persone che si dicono no, noi Fazio, mai Fazio nella vita, 18 milioni a stagione, scusi, per star seduto su una sedia a fare delle domande, va benissimo. Da parte mia non è una questione di invidia. Ma lei sì, ho capito, ma gli altri, quelli cattivi che dicono... Gli altri rispondono per se stessi, è chiaro che la stragrande maggioranza degli italiani vedono quello prende 8 milioni a stagione... E io prendo 1200 euro al mese che faccio un operaio. E allora per principio dici io sto con la Gabanelli, ma in realtà non è così. Ho capito, è molto chiaro, è chiarissimo. Maria, lei è fazzista o gabanellara? Gabanelli, tutta la vita. Ecco, lei però mi risponde un attimo all'accusa di quello del signore di poco fa, che ha detto, Pino, una cosa giusta. Dice, sì, facile dirsi tutti bravi a dire siamo forti, viva la libertà, viva la giustizia, non guardiamo in faccia a nessuno. Quando poi in realtà dentro di noi siamo tutti dei piccoli Fazio, o no? Sì, infatti lui è così. Praticamente china sempre la testa, non si espone più di tanto, è un falso proprio, perché a me non piace come persona, non la vedo, è mediocre come presentatore. Però posso dire una cosa, falso, no, falso secondo me non è giusto, perché non è che è falso come persona, recita in persona, è come fossero due maschere, guardi che manco la Gabanelli sicuramente è quello che sembra. Ogni persona che ha davanti comunque non mi piace, ma poi bisogna che lui si sciacqui la bocca quando parla dei suoi maestri Enzo Biagi o Minà, perché penso che Enzo Biagi si rigirerebbe nella tomba. Ma non era il suo maestro Enzo Biagi, lui faceva... è proprio un cattivo alunno. Ma no, ma lui non è in quel senso, lui faceva l'imitazione di Enzo, cioè non è stato mai allievo di Enzo Biagi. Facendo le imitazioni, e se io ci metto un'altra persona a fare quello che fa lui, ma è come se, Crozza dicesse sono allievo di Renzi o allievo di Salvini. Ma non è così. Come se Crozza dicesse sono allievo di Renzi o di Salvini, di quelli di cui fa l'imitazione. Faccia l'imitatore. Questa è un'altra roba. Questa è un'altra faccenda. E poi si espone del suo. Quindi lei è gabanelliana. Ma gabanelliana per odio verso Fazio o per scelta di campo in quanto Gabanelli? Tutte e due. Tutte e due. Quindi gabanelliana, però c'è questa cosa di mezzo. Paolo. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Fazzista o gabanelliano? Ma se devo scegliere Gabanelli... per un motivo semplice, Fazio è la summa, ripeto, la summa dell'ipocrisia e dell'asservimento al potere per il denaro. Poi io non sono particolarmente attaccato al denaro, quindi non sono geloso del suo compenso. Ma lei potrebbe guadagnare anche 10.000 euro al mese e invece la cifra che guadagna senza, è solamente una questione di... Quindi lei lo percepisce, scusi un attimo, non mi interessa, lei lo percepisce come tale, prende tanti soldi perché è asservito al potere e quindi... sicuramente, è la riproduzione di Vespa, insomma, in un certo no, senso. Non c'entra nulla, antite. Guardi, adesso non vogliamo entrare nello specifico, sono due mondi totalmente diversi, Vespa e Fazio, non c'entra nulla. Però detto questo, però mi faccia capire, Fazio è pagato perché sono dei programmi che comunque hanno un ascolto, hanno successo, quindi gli italiani comunque sia, non è che gli faccia tanto schifo, perché lo guardano, molto più di quanto guardano la Gabanelli. Dunque, perché si indirizza a un pubblico diverso, è tutto là. La Gabanelli va al fondo dei problemi e quindi richiama un pubblico, io penso, un pochino più acculturato e curioso, mentre Fazio è il nazional popolare. Però le faccio un'altra domanda. 10.000 persone hanno firmato la petizione lanciata dal Fatto Quotidiano per Milena, non perché è stata licenziata, per Milena, perché non so, le diano un incarico adeguato a quella che sono le aspettative del suo pubblico. Ma secondo lei 10.000 persone firmerebbero per Fabio Fazio? Se la Rai dicesse non ti do più i soldi, Fazio, oppure ti metto a fare qualcosa al posto di Marzullo, firmerebbero 10.000 persone? Dice no, rivogliamo Fazio in prima serata? No, secondo me no, anzi sarebbe vista come una sorta di liberazione, perché, le ripeto, Fazio è il totem dell'ipocrisia che circola all'interno della Rai e lei ne sa qualcosa a proposito. Beh, cioè, infatti, insomma, io sto fuori. A me mi hanno cacciato, infatti, non è che mantenuto. Infatti, appunto, dicevo, pazienza, questo fa parte solamente del tuo... Ecco, volevo dire l'ultima cosa riguardo la Gabanelli. Io ho tutta la stima per Gabanelli, perché ha dimostrato comunque una certa coerenza, anche se, come lei dice, non è quella che sembra. Comunque anche la Gabanelli... Ma no, non è, scusi, non voglio togliere... Dico, nessuno di noi è quello che sembra. Io nemmeno sono quello che sembro alla radio. Noi facciamo un mestiere che... Per quanto siamo onesti, per quanto cerchiamo una via di correttezza e di sincerità, siamo sempre un'altra cosa nella vita. Questo è normale, lo capisce? Sì, è normale. Bisogna dirlo. Certo. Non pensate che io quando esco da qui sono esattamente quello che voi sentite al microfono. Assomiglio certo, molto. Ti dà le parolacce anche lei, no? Ah, porco cane, ne dico un casino le parolacce, ma le dico anche qui. Appunto. Ma le parolacce, forse questi i miei problemi e i miei limiti fossero le parolacce, ci metterei la firma subito. Vabbè, abbiamo capito. Alberto. Sì, buongiorno. Lei cos'è? Ah, fazzista. Anche perché devo dire che è una sorta di emarginazione. Fazzisti carogne tornate nelle fogne, sembra quasi, perché nessuno ha coraggio di dirlo. Lei è fazzista, perché è fazzista? Vediamo. Anche perché a questo punto sono io l'eroe, non più i gabanelliani, diciamo, perché troppo facile a questo troppo punto facile, essere gabanelliani. Grazie. È comodo. È un po' come quando si andava a scuola, che c'era quello che, insomma, mandava sempre a ruba la professoressa, quello diventava l'eroe, quello che invece magari diceva, ma forse dice anche delle cose sensate, diventava Allora cerchiamo un attimo di capire, diciamo, però, di dare un contenuto ideologico anche al fazzismo, sennò sembra solo che il fazzo è il cattivo, l'infame, quello che prende i soldi, non vale niente, la Gabanelli è l'eroina. Alla fine tanto stanno dentro tutti e due, nessuno dei due è stato mai mal pagato, hanno sempre fatto la loro bella figura dentro il servizio pubblico. In questo momento c'è un momento così, ci avviciniamo alle elezioni, può essere che veramente non vogliono dare alla Gabanelli un ruolo di rilievo, perché magari può fare delle cose che mettono per paura. La RAI poi vive di pavidità, hanno più paura della loro ombra, che in realtà non succederebbe nulla se anche la Gabanelli facesse il TG1, direttore del TG1, non cambierebbe nulla, non è una persona stolta, farebbe comunque delle cose che magari farebbe anche più ascolto al TG, ma non è che metterebbe in crisi quello o quell'altro uomo politico, è la paura atavica delle persone RAI che sono già pronte al ricollocamento. Io in RAI ho fatto 30 anni, in RAI ogni anno e mezzo si fermava tutto, che bisognava ricollocarsi, cambiava l'area politica e tutti erano pronti come il gioco dei quattro cantoni, quindi non cambierebbe nulla. Diamo contenuto politico al fazzismo. Perché bisogna essere fazzisti? Perché secondo me i gabanelliani strizzano anche un po' l'occhio al nuovo movimento politico populista che sta venendo avanti. Beh, Gabanelli, sì, il Fatto Quotidiano gli fa, è chiaro, la Gabanelli in sé, ma perché lei non ha assolutamente nulla a che fare con la politica, non è mai stata appassionata di politica, questo è vero, è sempre stata sopra le parti. In questo momento però tutti hanno bisogno di nuovi eroi. La Gabanelli è l'eroe di quella che la dice a tutti, che quella mette le mani. Vorrei vedere se la Gabanelli domani cominciasse a mettere le mani su qualche affaruccio che magari non va bene, di persone vicine o nella orbita dei 5 Stelle. Diventerebbe evidentemente un'infame, una venduta. È capitato. Ma lei lo farebbe subito, conoscendo Milena, la prima cosa che farebbe garantito. Una bella inchiesta. È chiaro, sicuro, farebbe l'inchiesta garantito. Sui tombini di Roma, capito? E uscirebbe fuori. Quindi è transeunte. Quindi lei tutto sommato dice, è più onesto dire sono fazzista, perché è troppo facile dire sono gabanelliano, perché è tutti bravi, come diceva quella santa persona, a farlo con le parti molli e penetranti di altre persone. Ci sentiamo tra un istante. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presento. Melog. Il piacere del dubbio. Allora, ho preparato anch'io l'elenco di tutte le cose che io ti ho detto in questi no, anni. No, dai, su, gli insulti, ma anche tu. L'elenco degli insulti no. con cui in questi anni ho apostrofato il mio collega qui presente. Ma no, non fa ridere, è una cosa di cui dovresti vergognarti. Valengo, oh. Badola, Pisquano, Piccione, Pirla, Babbano, Babbione, Bifolco. Muffa, Piegaballe, Fetecchia, Gadano. Minchia, Stracchino, Trita Marroni. No, questo no. Trita Marroni. No. Questo non possiamo dirlo, perché no, ci vuole la smentita. Appunto. Allora, Sando Cazzo. Prete laico, Minchioncino. Mamma mia, se. Prostata di burro. Mamma. Fenotipo toporagno. Spilunga, rondine che non fa mai toporagno primavera. Intimità per sé. Tubo da stufa, cucù senza pigne. Matita era il più bello. Matita. Ecomostro, ripieno di Giovanni Rana. Ecomostro non me lo ricordavo più. Cimice d'autunno. Otaria, amico della. Quanti di voi si farebbero coprire di insulti al litizzetto, ridendo e sorridendo, ammiccando? Una grandissima parte di voi fanno buon viso a cattivo gioco, fanno finta di niente, si prendono calci in bocca, calci in culo, calci sulle palle, calci ovunque, ma sorridono sempre. Sono i fazzisti, perché non avete il coraggio di ammetterlo? E poi ci sono i gabanelliani quelli veri però. Di 1900 euro al mese del sindaco per la banca non sono una garanzia, perché non è detto che il comune possa continuare a darglieli. Ora però i sindaci fanno anche i presidenti delle province, che sono state smontate per sveltire la burocrazia, sacrosanto, e per risparmiare. Il problema sarebbe quello di accorciare i tempi della giustizia, invece si continuano ad utilizzare tutti i meccanismi che il sistema offre per perdere tempo. Mica gliela manda a dire, gliela dice in faccia. Questa è Milena Gabanelli, ma quanti di voi lo fanno veramente? Facile dirsi gabanelliani. Chiaro, devo un pochino convogliare l'attenzione anche verso il fazzismo, che in questo momento, devo dire, dai numeri, i numeri reali, quelli concreti, non quelli finti che vi stiamo dando voi, perché questo è un sondaggio pilotato, tutti i sondaggi sono pilotati, non pensiate che sia una cosa cose veramente corrispondenti alla realtà. Lo stiamo pilotando, perché sennò dovremmo chiamare soltanto Gabanelliani. Chiama un fazzista ogni 20 Gabanelliani, quindi logicamente stiamo facendo una sporca operazione di dare voce anche ai fazzisti, sennò non esisterebbero proprio, sarebbe una cosa totalmente bulgara. Fabio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Cos'è lei? Io sono un gabanelliano sicuramente, ma ci tengo a specificare gabanelliano di fatto e non gabanelliano solo di nome. Quindi nasce già una corrente nei gabanelliani? Sì, lei rappresenta una corrente. Facile, mi riallaccio a quello che lei stesso diceva prima dell'interruzione pubblicitaria. È troppo facile fare certe cose con, con le parti molle penetranti altrui, fatelo con le vostre. Conosco tantissimi che sono gabanelliani, poi andate a farvi poi fare dopo, la manina, un servizio al momento utile, quindi ci tenevo a fare questa distinzione. E poi, visto che lei chiedeva dei numeri inizialmente, ragionerei anche sul fatto che se in Italia ci fosse diciamo un terzo, soltanto un terzo in meno dei fazzisti che ci sono in giro, probabilmente avremmo altri numeri di PIL, avremmo altri numeri di classifiche nazionali. Allora il vero problema del paese è il fazzismo che è rappresentato. È proprio un modo di pensare. E però vede il suo successo proprio perché rappresenta, come Alberto Sordi che rappresentava gli italiani, Fazio rappresenta una esatto. lettura edulcorata, più radical chic, più legata alla cultura, legata al mondo. Ridiamo di noi stessi, diciamo quanto siamo intelligenti e quanto possiamo fare il triplo salto mortale di rappresentarci per quello che siamo veramente. E quindi Fazio appartiene comunque a una sinistra colta, quando in realtà dovrebbe appartenere alla media degli italiani. Quindi lei è gabanelliano, però è la corrente gabanelliana che rivendica una sorta di purezza di scaturigine ideale del gabanellismo. Guardi, se penso a tutti i brucioli di stomaco e mal di pancia che mi sono venuti negli ultimi anni, da quando sono impegnato politicamente in una lista civica contro colate di cemento, rappresentante di Scala nel mio condominio, nonché rappresentante di classe a scuola. Ma lei prende, scusi, lei prende un inibitore di pompa? No, io prendo un calmante proprio per, esatto, proprio per... Si chiama inibitore di pompa, che in sé è una cosa terrificante. Lei è la parte di italiani che proprio perché in realtà si battono contro il fazzismo e hanno il duro compito di appartenere alla corrente pura del gabanellismo, hanno una sorta di voto di castità gastrica imposta e si prendono ogni mattina, ogni sera la pillolina, si chiama inibitore di pompa, che è una cosa che fa venire i brividi, ma questo ci tocca. Alice. Buongiorno. Fazzista o gabanelliana? Gabanelliana. Vabbè, ma siete veramente... non vale più manco la pena andare avanti. Vediamoli perché... Vale quello che le dica. Gabanelliana. No, io non voglio... Gabanelliana. Ma perché? Premetto, spezzo una piccola lancia. Sono programmi diversi, persone diverse. Fazio in origine faceva dei programmi di divertimento, di evasione, anche belli. Anima mia, per esempio, uno per tutti, a me era piaciuto moltissimo. Poi si è messa a fare questo programma, quello di, come si chiama? Che tempo che fa? Che tempo che fa? Che all'inizio, secondo me, non era male. Poi ha fatto alcune interviste, secondo me, imbarazzanti. Tipo? Diciamo che era faccio, troppo un prono. Faccio un esempio. Faccio un esempio. E non me le ricordo perché poi ho smesso di guardarlo. Comunque l'atteggiamento prono, che in sé è simbolico di un cedimento. Prono, ma non a un artista, un pittore, un musicista che neanche intervistati, prono a certi politici. Beh, quando, scusi, quando uno, adesso non so se era presente, quando uno si mette prono non vede più chi gli sta dietro, è prono e sta lì, aspetta. La pronaggine è un atteggiamento passivo, non è che il prono sceglie la persona che lo pronizza. Perfetto. Il prono è pronizzato. Per me era troppo prono. E uno prono, chiude gli occhi e sta lì e aspetta. Ecco, va bene, come vuole lei, prono, e ho smesso anche un po' di guardarlo. Va bene. Poi, la cifra, io non so quanto abbia preso la Gabanelli, ma se è veramente, ho capito, 18 milioni. No, quello era Fazio, quello è Fazio. Fazio, sì, il Fazio, 18 milioni. Sì, vabbè, milioni. Però bisogna vedere, 18 milioni, non è che li metto in mano una, come il signor Buonaventura. Lui è anche produttore, c'è la produzione, sopra la riga, sopra la linea, sotto la linea, c'è tutta una serie di cose, gli autori, i costi di produzione, sono probabilmente quelli che un mercato richiede, non bisogna dire fare la valutazione sui nostri stipendi. È un'altra, però lasciamo perdere, lei ha fatto una scelta. Lucilla. Sono Lucilla, sì, dunque sono fazzista. Oh, ha il coraggio di dire che è fazzista. Sì, perché secondo me professionalmente è anche più bravo, è un intrattenitore, non ha pretese di cambiare il mondo, intervista sempre gente interessantissima. Oh, finalmente la semplicità. Intervista la Madonna, Blair, no, Madonna. Fernand, tutta gente che, che non viene mai in televisione in Italia. Da lui ci vanno però, mica vanno dalla Gabanelli, quello è vero. La Gabanelli ha iniziato con ottime inchieste, però ha alzato troppo la temperatura per mantenere il livello, adesso è arrivata ad attaccare la pizza, e no. Vabbè, il problema oggi che ci assatana è l'acqua con la plastica dentro. Lo so, per mantenere il livello deve alzare la temperatura, ma ci si brucia così. Vabbè, io do i numeri miei sono che Fazio è 4 persone contro 8 Gabanelli, ma i numeri veri sono che in realtà una trentina gabanelliani contro 7 fazzisti. Gabanelli spopola, ma in realtà Fazio impera e rimane al suo posto, alla faccia di tutti. Alla prossima.